Coffee Break Italian, Season 2, Episode 38. Buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian. Io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. Oggi c'è anche qualcun altro, no? Sì, c'è un ospite speciale. Un ospite speciale. Chi è questo ospite? È mio papà. Buongiorno signore. Ciao Mark. Come sta? Sto bene, sono arrivato adesso con mia moglie qui a vedere gli studi dove fate questo corso di lingua, molto interessante. E ho visto tutti gli impiegati, tutti gentilissimi, mi hanno accolto come fossi il loro datore di lavoro, proprio sono stato emozionato. Benissimo, noi siamo molto contenti che voi siate qui. E a parte il tempo che qui a Glasgow sta diluviando in una maniera incredibile, sembra di essere a Biella quando piove. E comunque la città è bella e la gente è ospitale, il whisky è buonissimo e speriamo di fermarci ancora qualche giorno e sempre trovarsi bene così. Perfetto. Lei ha qualche parola per i nostri ascoltatori? Beh, voglio dire a tutti quelli che seguono Coffee Break di seguirlo sempre di più, che è molto interessante il corso. Allora, grazie mille. Grazie a voi di avermi ospitato e alla prossima. Ok, I think it's time to get on with our episode for today. Allora, Francesca, sei pronta? Certo, prontissima. Cominciamo allora. Va bene. Allora, penso che oggi sia il grande giorno. Sì, o forse meglio la grande notte. È vero, perché manca poco alla notte di San Lorenzo. Esatto, Mark. Se ti ricordi, nell'episodio 37 abbiamo visto che tutti al campeggio erano molto impegnati con gli ultimi preparativi. È vero, mi ricordo. Le sedie, le coperte, le birre, i panini. Tutte cose essenziali. E abbiamo visto che anche Riccardo vuole aiutare. Sì, è vero. Anche Riccardo ha lavorato sodo. E alla fine dell'episodio 37 vediamo Riccardo e Maria che finalmente si rilassano con un aperitivo, pronti per la notte di San Lorenzo. Allora, non perdiamo tempo e ascoltiamo il nuovo episodio. Sì, dai. Finalmente è il grande giorno e nel campeggio c'è aria di festa. Mancano poche ore alla notte di San Lorenzo e tutti si preparano per godersi al meglio questo spettacolo della natura. C'è chi va ad occupare il posto migliore sul prato, chi prepara panini a volontà e chi sogna ad occhi aperti già dalle prime ore del mattino, come Giorgio, Mia e Anna, che sanno già quale desiderio esprimere. Si vede bene da qui, vero? Hai scelto proprio un buon posto. Volevo essere un po' lontana dalla folla. Sì, qui siamo davvero tranquilli. Ho portato una bottiglia di prosecco e anche una coperta. Sai, più tardi potrebbe fare un po' freddo. Dai, apriamo il prosecco. Se hai freddo, ci sono qui io. Ah, finalmente è tutto pronto. Oh, sono distrutta. Anch'io sono a pezzi. Sistemo la coperta così possiamo guardare anche noi le stelle. Mi dispiace, ragazzi, ma grazie mille per tutto il vostro aiuto. Siete due angeli. Tutti gli ospiti del campeggio sembrano contenti. Oh, guardate! Non solo gli ospiti sembrano contenti. Cosa c'è? Laggiù. Riccardo e Maria. È vero. Oddio, sono seduti vicini vicini. We need to be careful. I don't want my dad to see us. Guarda, guarda, guarda! Oh, wow, che bella! Aspetta, girati. Un'altra! Che meraviglia! Adesso esprimi un desiderio. Fammi pensare. Ok, fatto. Non dire niente, però, se no non si avverrà più. Questa notte è davvero una meraviglia. Tutta la gente è seduta con il naso all'insù e le stelle cadenti regalano uno spettacolo incredibile. Riccardo approfitta della magia del momento e delicatamente posa il suo braccio sulla spalla di Maria. Lei sorride e avvicina la sua testa alla spalla di Riccardo. Ma proprio sul più bello, Riccardo si gira e vede i tre ragazzi. Oddio, non ci credo! Riccardo, ti prego, non andare, non hanno fatto niente di male. Cosa fa Mia di nuovo insieme a Giorgio? Ma sono tutti e tre insieme, guardano le stelle. Non sopporto quel ragazzo vicino a mia figlia, gli devo parlare. Oh, ti prego, calmati. Maria, lasciami andare. Riccardo è proprio un guastafeste, oltre ad essere un padre gelosissimo. Appena ha visto Mia vicino a Giorgio, è letteralmente impazzito. Ha lasciato Maria da sola e si è diretto verso i tre ragazzi che erano a dir poco terrorizzati. Riccardo ha avuto una discussione molto accesa con il povero Giorgio, mentre le ragazze osservavano la scena senza dire una parola. Le stelle cadenti non sono riuscite a fare il miracolo che tutti desideravano. E voi che cosa dite? Continuerà ad andare tutto storto o prima o poi le cose andranno per il verso giusto? I think that is the perfect word to describe Riccardo. Guastafeste. Sì. A spoilsport or a party pooper, yeah? Sì, un guastafeste, una bella parola. And it's un guastafeste. Sì. So we've got guastare, the verb. Is that like to spoil? Sì, to spoil, to damage. Okay, to damage. And then feste, the parties. Yeah, so sì. Guastafeste, un guastafeste. Riccardo è il guastafeste. Sì, per eccellenza. Absolutely. And it's such a shame that it happened on such a special night. Ah, lo so, ma abbiamo ancora due episodi, quindi speriamo okay. che succeda qualcosa. Speriamo, speriamo. Okay, let's go back now and listen to the first section and then we'll talk about the language contained in that section. Finalmente è il grande giorno e nel campeggio c'è aria di festa. Mancano poche ore alla notte di San Lorenzo e tutti si preparano per godersi al meglio questo spettacolo della natura. C'è chi va ad occupare il posto migliore sul prato, chi prepara panini a volontà e chi sogna ad occhi aperti già dalle prime ore del mattino, come Giorgio, Mia e Anna, che sanno già quale desiderio esprimere. Okay, in this first part of the episode, the narrator is telling us a bit about what's going on at the campsite. Yeah, it all seems very exciting mm-hmm. for the moment. And the narrator even says, c'è aria di festa. Yeah, like a kind of party atmosphere, yeah? Sì, sì, esatto. E Mark, che cosa fanno tutte le persone? Ah, I like this. C'è chi va ad occupare il posto migliore sul prato. Sì, bravissimo. So there are those who are going to take the best spot on the grass. C'è chi prepara panini a volontà. Perfetto. So there are those who prepare sandwiches galore. Oh, very nice. Yeah, a volontà galore. Sì. E c'è chi sogna ad occhi aperti già dalle prime ore del mattino. And there are those daydreaming since very early in the morning. Come Giorgio, Mia e Anna, vero? Eh sì, perché loro sanno già quale desiderio esprimere. Esprimere un desiderio, to make a wish. Let's see if their wish is granted. Si vede bene da qui, vero? Hai scelto proprio un buon posto. Volevo essere un po' lontana dalla folla. Sì, qui siamo davvero tranquilli. Ho portato una bottiglia di prosecco e anche una coperta. Sai, più tardi potrebbe fare un po' freddo. Dai, apriamo il prosecco. Se hai freddo, ci sono qui io. Oh, un'altra bella scenetta. Ti piacciono queste scenette, vero? Sì, perché un po' mi sembra di essere a casa in Italia, sai, con i miei amici italiani. Sì. Comunque, Maria, devo dire, ha pensato proprio a tutto. Certo, ha scelto un posto lontano dalla folla. Bravissimo, una buona parola, la folla, the crowd. E Mark, che cosa ha portato Maria? Una coperta. Una bottiglia di prosecco. Esatto, ma Riccardo rassicura Maria per quanto riguarda il freddo. Hai capito che cosa le dice? Sì, come romantico, no? Dice, sì. Se hai freddo, ci sono qui io. Sì, che mossa! Davvero italiano. What a move, yeah. So if you're cold, I'm here to protect you from the cold. Oh. Vediamo cosa stanno facendo i tre ragazzi adesso. Sì, vediamo. Ah, finalmente è tutto pronto. Oh, sono distrutta. Anch'io sono a pezzi. Sistemo la coperta così possiamo guardare anche noi le stelle. Mi dispiace, ragazzi, ma grazie mille per tutto il vostro aiuto. Siete due angeli. Tutti gli ospiti del campeggio sembrano contenti. Oh, guardate. Non solo gli ospiti sembrano contenti. Cosa c'è? Laggiù. Riccardo e Maria. È vero. Oddio, sono seduti vicini vicini. We need to be careful. I don't want my dad to see us. Finalmente un po' di riposo anche per mia Anna e Giorgio. Mi piace cosa dice Giorgio. Sono a pezzi. Ah, sì, bravo. Literally sono a pezzi is I'm in pieces and it means to be very tired. Devo dire che sì, they all worked a lot to get everything ready for this night. And Anna thanks her friends, describing them as... as angels. Sì, siete bravissimo. Due angeli. Sì, un po' come quando in inglese voi dite you're a star. Yeah, noi diciamo exactly. Sei un angelo, sei un tesoro anche. Ok. So everything seems fine until Anna spots something, or rather someone. Sì, Anna vede che Maria e Riccardo sono seduti vicini vicini. Vicini vicini, I like that. It's very close together, so you can just repeat the adjective. Sì, in Italian if you repeat an adjective twice, you basically intensify it. Ad esempio, posso dire, attento Mark, questo caffè è caldo caldo. Caldo caldo. Posso dire allora che Mia è nervosa nervosa? Sì, sì, povera Mia. Vediamo perché è nervosa nervosa. Just before we do, however, Francesca, I wonder if you remember last week when we were all out for a team lunch and our colleague Christina was having ravioli. Sì. And there were different types of ravioli on the menu and the waiter was asking which one and she pointed to the ravioli that she wanted. Ah, sì. And he said, ah, I ravioli, ravioli. I ravioli, ravioli. the standard ravioli. Yeah, and I believe they were very, very good too. Oh, they looked delicious. Anyway, let's get back to our episode here and listen to the next section. Guarda, guarda, guarda! Oh, wow, che bella! Aspetta, girati! Un'altra! Che meraviglia! Adesso esprimi un desiderio. Fammi pensare... Ok, fatto! Non dire niente, però, sennò non si avverrà più. Now, over the different episodes of our soap opera, I've noticed that there have been many examples of imperatives of the command form, and here we've seen some more just in this little section. Bravo, Mark, well spotted. Hai studiato, vedo. Sì, certo. Bravissimo. Infatti, dice Riccardo, dice, guarda. Look, he's looking at the falling stars, the shooting stars, rather. Bravissimo. E Maria anche dice, aspetta. Wait. And girati is also an imperative. It is from girare, and in this case it's a reflexive imperative, so it's like turn yourself. Sì. And the T goes on the end of the imperative there, yeah? Sì, sì, girati. Girati, but it's one word, written as one word. One word. Okay. And there are more imperatives, Mark. Oh, of course, esprimi un desiderio. Sì, make a wish, and one more. Fammi pensare. Bravo, bravo. Fa is the imperative of fare, to do or to make, and together there is the pronoun mi. So they form one sole word, fammi. Fammi pensare. So let me think. Okay. Okay, so Ricardo makes his wish and Maria warns him with a negative imperative this time, doesn't she? Bravissimo, Mark. Maria dice non dire niente. Don't say anything. Mm-hmm. So we have a negative imperative for one person informal. So we're using non followed by the infinitive, not by the imperative. Yes, exactly. Ad esempio, non fumare. Don't smoke. O non dormire fino a tardi. Don't sleep till late. Sì, perfetto, è facile. È facilissimo. So hopefully Riccardo won't say anything. And maybe his wish will come true. Vediamo allora. We'll listen to the next section after our break. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, as you know, it is the famous Notte di San Lorenzo, and our friends, both our younger friends and our not so young friends, are watching the falling stars on the hill above the campsite. Let's listen to the next section in which the narrator explains what is happening. Questa notte è davvero una meraviglia. Tutta la gente è seduta con il naso all'insù e le stelle cadenti regalano uno spettacolo incredibile. Riccardo approfitta della magia del momento e delicatamente posa il suo braccio sulla spalla di Maria. Lei sorride e avvicina la sua testa alla spalla di Riccardo. Ma proprio sul più bello, Riccardo si gira e vede i tre ragazzi. Oh dear, such a romantic scene, and it looks like things are just going to be changing. I know, it started so well. Indeed. I really loved when the narratrice said Riccardo posa delicatamente il suo braccio sulla spalla di Maria. It's so romantic. Posare is such a nice verb. It means to lay, to put, but in a very delicate and gentle manner. Indeed, and Maria seems to be quite happy about this. Sì, perché Maria sorride. She smiles. E avvicina la sua testa alla spalla di Riccardo. She brings her head closer to Riccardo's shoulder. Sì. Everything seems great until Riccardo turns around and sees Mia, Anna and Giorgio. E qui, apriti cielo. Apriti cielo, I love it, I love it. You use that when something tragic is about to happen, sì. When someone's going to react badly to something. Sì. Vediamo un po'. Va bene. Oddio, non ci credo. Riccardo, ti prego, non andare, non hanno fatto niente di male. Cosa fa Mia di nuovo insieme a Giorgio? Ma sono tutti e tre insieme, guardano le stelle. Non sopporto quel ragazzo vicino a mia figlia, gli devo parlare. Oh, ti prego, calmati. Maria, lasciami andare. Oh dear, Riccardo cannot simply accept that his daughter likes spending time with Giorgio. Yeah, he needs to get that sorted out, quite frankly. Not even Maria can convince him when she says, non andare, non hanno fatto niente di male. Esatto, don't go, they haven't done anything bad. Exactly. Riccardo è sincero, lui semplicemente non sopporta la presenza di Giorgio vicino a sua figlia, ecco. He says, non sopporto quel ragazzo, I can't stand that guy. È un'espressione abbastanza forte, vero? Eh sì, sicuramente non è un complimento. Maria tries to convince him to calm down with yet another imperative, another reflexive imperative. Bravo, well spotted again. Calmati, literally calm yourself down. But Riccardo uses another imperative to react. Sì, ancora un altro imperativo, lasciami andare, let me go. Well, things are not looking too good. Let's see how la narratrice sums up the whole night. Riccardo è proprio un guastafeste, oltre ad essere un padre gelosissimo. Appena ha visto Mia vicino a Giorgio, è letteralmente impazzito. Ha lasciato Maria da sola e si è diretto verso i tre ragazzi che erano a dir poco terrorizzati. Riccardo ha avuto una discussione molto accesa con il povero Giorgio, mentre le ragazze osservavano la scena senza dire una parola. Le stelle cadenti non sono riuscite a fare il miracolo che tutti desideravano. E voi che cosa dite? Continuerà ad andare tutto storto o prima o poi le cose andranno per il verso giusto? Well, it seems that wishes don't always come true, but I do love that word, guastafeste. We spoke about it earlier. Sì, sì, è proprio una parola simpatica, anche se negativa, ovviamente, sì. Però è una bella espressione. Comunque, che cosa ha fatto Riccardo? Well, he left Maria alone and then went to talk to Mia, Anna and Giorgio, who were terrorizzati. Sì, terrorizzati, frightened, scared, terrified. Poor Giorgio had to face Riccardo while the two girls were watching the whole scene in silence. Sì, addirittura erano mute. Well, not the happy ending we were hoping for, or the miracle, as the narratrice says. No, but I think, or at least I hope, there is a scope for hope. For hope. Sì, la narratrice, she ends with an interesting question. Continuerà ad andare tutto storto? Will things continue to go wrong? Sì, o prima o poi le cose andranno per il verso giusto? Or sooner or later will things start going in the right direction? Lo scopriremo nel prossimo episodio, direi, il penultimo. Il penultimo, esatto. That is it for this episode of Coffee Break Italian. Now, don't forget, however, that there is more. You can access the full version of this episode, and indeed the full version of all our previous episodes, through the online course, Coffee Break Italian Plus, if you like. So the full course for season two, and each episode has a video version of the episode where you see the words on the screen of your device or your computer, the lesson notes, which include a transcript of all the parts of the soap opera that we've been listening to, and, of course, the bonus listening materials, which, for this episode, include a full discussion of all of the language contained in the lesson. However, there's something else to mention here, too, and that is, this particular episode, we've got an extra special bonus for our premium listeners, and that is a special coffee break Piemontese with Clemente, Francesca's dad. We went on to record a special episode looking at the Piemontese dialect, which Francesca's dad speaks, and we put that little excerpt in as a bonus for this lesson, and I'm sure you'll love that. I've been learning Piemontese. It's wonderful. Sì, Mark. And of course, we would like to remind you that we'll regularly post content on social media to help you improve and practice your Italian. You can find us on Facebook, where 3 times a week we post cultural and language learning tips, giving you the chance to respond and try out what you are learning in each episode. Search for Coffee Break Italian and make sure you like our page. And there is also Twitter, where we post regular links to lessons. Follow at Learn Italian. And you can also join us on Instagram, where we have been sharing stories for language learners and some behind the scenes photos of what goes on here at Coffee Break Languages. Make sure you follow at Coffee Break Languages on Instagram to keep up with all our latest news and language learning tips. There you have it. That's it for this episode. We hope you've enjoyed it as ever. And we will be back again soon with the next episode, the penultimate episode in the series. Francesca, how do you say goodbye in Piemontese again that your dad taught me? In Piemontese si dice arvezzi. Arvezzi. So sì. Arvezzi for this episode. Grazie. Ciao. Arvezzi. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017 Radiolingua Limited. Recording copyright 2017 Radiolingua Limited. All rights reserved.